terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Amantide. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Mad Chain, come il primo che è andato in onda. Titolo? Questa era Creepy Crawlies, era il primo singolo estratto dal nostro album. La vostra esperienza durante le incisioni per questo nuovo disco, come sentite di aver lavorato questa volta in virtù della precedente esperienza, ora che avete una line-up nuova e un sound più potente? Decisamente abbiamo lavorato meglio dell'album precedente, abbiamo fatto tesoro insomma degli errori fatti e soprattutto ci siamo appoggiati ad uno studio eccezionale che è il Flame Out Studio, che hanno fatto, cioè i ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico, ci hanno fatto sentire veramente a nostro agio, hanno seguito benissimo tutte le fasi di produzione dell'album. Ci hanno capito al volo quello che volevamo. Ed è importante questo. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Allora, il prossimo pezzo è Princess of Lies. Sempre con gli Amantide ospiti, recensioni musicali su carta stampata e web, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno apprezzato e segnalato? Beh, importanti sono tutte importanti, per il fatto che una persona abbia dedicato il proprio tempo ad ascoltare il nostro album è sicuramente un regalo grandissimo che ci hanno fatto. Sono uscite recensioni su Rockhard, Metal Wave, adesso un po' ovunque, insomma soprattutto nel web. E diciamo che è stato un po' più controverso dell'album precedente. Ci sono alcuni recensori che l'hanno apprezzato molto, soprattutto il nuovo sound, altri che non l'hanno capito, diciamo che non l'hanno capito molto. Succede, anzi da un lato è anche una cosa positiva, perché a differenza dell'album precedente, che era stato un po' accolto senza infamia né lode, questo ha fatto un po' più chiacchierare, e questa insomma era una cosa che volevamo. Prossima canzone? Il prossimo pezzo è My Enemy. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Amantide. An ideal, it is in the wrong way, is without enemy.